Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Anna non si aspettava che l'ambiente per nulla cambiato dell'anticamera della casa in cui aveva abitato per 9 anni l'avrebbe impressionata in modo così forte. Nella sua anima, uno dopo l'altro, si sollevarono i ricordi gioiosi e tormentosi e, per un istante, essa dimenticò perché fosse lì. «Volete aspettare?» disse Capitonic togliendone la pelliccia. Tolta la pelliccia, Capitonic la guardò in faccia, la riconobbe e le fece un profondo inchino in silenzio. «Vi prego, eccellenza!» disse. Anna avrebbe voluto dir qualcosa, ma la voce si rifiutava di pronunciare qualsiasi suono. Dopo aver guardato con colpevole supplica il vecchio, si avviò su per la scala a passi rapidi e leggeri. Piegato tutto in avanti e impigliandosi con le soprascarpe nei gradini, Capitonic le corse dietro cercando di oltrepassarla. «C'è il maestro là! Forse non è vestito! Vi annuncio!» Anna continuava a salire la ben nota scala senza comprendere che cosa dicesse il vecchio. «Qui, favorite a sinistra, scusate se non è pulito. Adesso è in quella che prima era la stanza dei divani. Permettete, abbiate pazienza, eccellenza, do un'occhiata», disse, e sorpassatala socchiuse una porta alta e scomparve dietro di essa. Anna si fermò, aspettando. «Si è appena svegliato», disse il portinaio uscendo di nuovo dalla porta. E nel momento in cui il portiere disse questo, Anna sentì il rumore di uno sbadiglio infantile. Dalla sola intonazione di questo sbadiglio riconobbe il figliuolo e lo vide come vivo davanti a sé. «Lasciami, lasciami, vai!» disse ed entrò nella porta alta. A destra della porta c'era un letto e sul letto stava seduto, sollevandosi, un bambino con indosso la sola camicia sbottonata e con il corpicino piegato, stirandosi, finiva di sbadigliare. Nello stesso momento in cui le sue labbra si unirono, esse si atteggiarono a un sorriso beatamente sonnolento e con questo sorriso egli ricadde di nuovo indietro lentamente e con dolcezza. «Seriosa», mormorò lei avvicinandosi a lui senza far rumore. Nel periodo del distacco da lui e in quell'afflusso d'amore che aveva provato tutto quell'ultimo tempo, lei se lo immaginava come un bambino di 4 anni, come più di tutto l'aveva amato. Adesso non era nemmeno più come lei l'aveva lasciato. Era ancora più lontano da quello che era stato a 4 anni. Era cresciuto ancora e dimagrito. Ma cos'era questo? Com'era affinato il suo viso? Corti i suoi capelli? Che braccia lunghe? Com'era cambiato da quando l'aveva lasciato? Eppure era lui, con la forma della sua testa, con le sue labbra, con il suo piccolo collo morbido e le spallucce larghe. «Seriosa!» ripeté proprio sull'orecchio del bambino. Lui si sollevò di nuovo su un gomito, girò la testa scapigliata da tutte e due le parti, come cercando qualcosa, e aprì gli occhi. Per alcuni secondi guardò silenziosamente e interrogativamente la madre che stava sopra di lui, poi a un tratto sorrise di beatitudine e, chiusi di nuovo gli occhi che gli si appiccicavano, si lasciò cadere giù, ma non riverso, bensì verso di lei, verso le braccia di lei. «Seriosa, mio bambino caro!» proferì Anna sentendosi soffocare e cingendo con le braccia il suo corpo paffuto. «Mamma!» disse lui muovendosi sotto le sue mani per toccare quelle mani con le varie parti del corpo. Sorridendo, assonnato, sempre con gli occhi chiusi, attraverso la spalliera del letto si afferrò con le manine paffute alle spalle di lei, si lasciò andare addosso a lei, inondandola di quel caro odor di sonno e di tepore che hanno solamente i bambini, e cominciò a fregarsi con il viso contro il suo collo e le sue spalle. «Lo sapevo», disse aprendo gli occhi. «Oggi è il mio compleanno, lo sapevo che saresti venuta, adesso mi alzo». E, dicendo questo, si addormentava di nuovo. Anna lo scrutava avidamente, vedeva come era cresciuto e cambiato in sua assenza, riconosceva e non riconosceva le sue gambe nude, adesso così lunghe, che si erano liberate della coperta. Riconosceva quelle guance smagrite, quei riccioli corti tagliati sulla nuca dove l'aveva baciato così spesso. Tastava tutto questo e non poteva dir nulla. Le lacrime la soffocavano. «Perché piangi, mamma?» disse lui svegliandosi del tutto. «Mamma, perché piangi?» gridò con voce piagnucolosa. «Io? No, No, non piangerò più. Piango dalla gioia. Era tanto tempo che non ti vedevo. Non lo farò più, non lo farò più, disse inghiottendo le lacrime e voltandosi dall'altra parte. Beh, adesso tu devi vestirti, aggiunse dopo essersi ripresa e aver taciuto un poco, e senza lasciare la sua mano si sedette accanto al letto su una sedia dove erano preparati i vestiti. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Daria Aleksandrovna passava l'estate con i bambini a Pokrovskoe, presso la sorella Kitty Levina. Nella sua proprietà la casa era andata completamente in rovina e Levin e la moglie l'avevano persuasa a venire da loro. Stepan Arkadyč aveva caldamente approvato questa sistemazione. Diceva di essere molto addolorato che l'impiego gli impedisse di trascorrere l'estate con la famiglia in campagna, cosa che sarebbe stata per lui la felicità suprema. Così, rimasto a Mosca, veniva qualche rara volta in campagna per uno o due giorni. Oltre agli Oblonsky con i loro bambini e la governante, quell'estate era ospite dei Levin anche la vecchia principessa, che considerava proprio dovere sorvegliare la figlia inesperta che si trovava in quello stato. Oltre a ciò, Varenka, l'amica di Kitty all'estero, aveva adempiuto la sua promessa di venire da lei quando Kitty si fosse sposata ed era ospite della sua amica. Tutti questi erano parenti e amici della moglie di Levin, e benché Levin volesse bene a tutti loro, gli dispiaceva un po' per il suo mondo e il suo ordine di cose leviniano, soffocato da questa inondazione dell'elemento scerbachiano, come lui diceva a se stesso. Dei suoi parenti era loro ospite Sergei Ivanovich, ma anche lui era un uomo di struttura non leviniana, ma kosnisheviana, così che lo spirito leviniano era completamente soffocato. Nella casa dei Levin, da molto deserta, adesso c'era tanta gente che quasi tutte le stanze erano occupate e quasi ogni giorno la vecchia principessa, sedendosi a tavola, doveva contare i presenti e mettere il 13° nipotino o nipotina a un tavolo separato. Anche per Kitty, che si occupava con diligenza dell'andamento della casa, c'erano non poche preoccupazioni per comprare le galline, i tacchini e le anitre che, con gli appetiti estivi degli ospiti e dei bambini, si consumavano in grande quantità. Tutta la famiglia era seduta a pranzo. I bambini di Dolly con la governante e con Varenka facevano progetti dove andare a cercare funghi. Sergej Ivanovich, che fra tutti gli ospiti godeva di una stima che arrivava quasi all'adorazione per via della sua intelligenza e della sua erudizione, stupì tutti immischiandosi nella conversazione sui funghi. «Prendete anche me con voi, mi piace molto cercare i funghi», disse guardando Varenka. «Trovo che è un'ottima occupazione». «Ah, certo, noi siamo molto contenti», rispose Varenka arrossendo. Kitty scambiò un'occhiata significativa con Dolly. La proposta del colto e intelligente Sergej Ivanovich d'andare a cercare funghi con Varenka confermava certe supposizioni di Kitty, che negli ultimi tempi l'avevano molto occupata. «Che delizia la mia Varenka, vero?» disse Kitty al marito non appena Sergej Ivanovich si fu alzato. Lo disse in modo che Sergej Ivanovich potesse sentirla, cosa che lei evidentemente desiderava. «E com'è bella, nobilmente bella!» «Varenka!» gridò Kitty. «Andrete nel bosco del mulino? Vi raggiungeremo!» «Decisamente tu dimentichi il tuo stato, Kitty!» disse la vecchia principessa uscendo frettolosamente dalla porta. «Non devi gridare così!» Avendo udito la voce di Kitty e il rimprovero della madre, Varenka si avvicinò rapidamente a passi leggeri verso Kitty. La rapidità dei movimenti, il colorito che le copriva il viso animato, tutto mostrava che in lei accadeva qualcosa di insolito. Kitty sapeva che cosa fosse questa cosa insolita e seguiva l'amica con attenzione. Adesso aveva chiamato Varenka solamente per benedirla mentalmente in vista dell'importante avvenimento che, secondo l'idea di Kitty, doveva compiersi dopo pranzo nel bosco. «Varenka, io sarò molto felice se succederà una cosa», bisbigliò baciandola. Varenka, con il suo fazzoletto bianco sui capelli neri, circondata dai bambini, benevolmente e allegramente occupata da loro ed evidentemente agitata dalla possibilità di una spiegazione con un uomo che le piaceva, era molto attraente. Sergej Ivanovich camminava al suo fianco e non cessava di ammirarla. Guardandola, ricordava tutti i discorsi sensati che aveva ascoltato da lei, tutte le cose buone che di lei aveva sentito dire, e sempre più si rendeva conto che il sentimento che provava nei suoi confronti era qualcosa di particolare, che lui aveva già provato molto tempo prima e un'unica volta nella prima giovinezza. La sensazione di gioia per la vicinanza di lei aumentando sempre, giunse al punto che, dandole nel cestino un enorme fungo prugnolo con il gambo sottile e con gli orli accartocciati, la scrutò negli occhi e, avendo notato un rossore di gioiosa e spaventata agitazione che le copriva il viso, si confuse egli stesso e le sorrise in silenzio con un sorriso che diceva troppo. «Se è così», si disse, «devo riflettere e decidere e non abbandonarmi come un ragazzo al trasporto d'un momento. Adesso andrò a raccogliere i funghi separatamente da tutti, altrimenti i miei acquisti non si notano», disse, e si incamminò da solo dal margine del bosco dove loro camminavano sulla bassa erba di seta fra vecchie rade betulle verso il mezzo del bosco dove tronchi grigi di pioppo e scuri cespugli di noccioli apparivano fra i bianchi tronchi delle betulle. Per quante donne e ragazze ricordasse, non poteva ricordare una ragazza che unisse a tal punto tutte, proprio tutte le qualità che lui, ragionando freddamente, desiderava vedere nella propria moglie. Lei aveva tutto l'incanto e la freschezza della giovinezza, ma non era una bambina, e se lo amava consapevolmente, come deve amare una donna. Questa era una cosa. Un'altra. Lei non soltanto era lontana dalla mondanità, ma evidentemente aveva repulsione per il mondo e nello stesso tempo conosceva il mondo e aveva tutte quelle maniere di donne della buona società, senza delle quali per Sergej Ivanovich era impensabile la compagna della sua vita. Terza cosa, era religiosa e non come un bambino religiosa e buona senza rendersene conto, come era per esempio Kitty. No, la sua vita era fondata su convinzioni religiose. Persino nelle minuzie Sergej Ivanovich trovava in lei tutto ciò che desiderava da una moglie. Lei era povera e sola, sicché non avrebbe portato con sé un mucchio di parenti e il loro influsso nella casa del marito, come lui vedeva nel caso di Kitty, ma sarebbe stata debitrice di tutto al marito. Altra cosa che lui aveva sempre desiderato per la propria futura vita familiare. E questa ragazza che riuniva in sé tutte queste qualità lo amava. Lui era modesto, ma non poteva non vedere questo. E anche lui l'amava. L'unica considerazione in contrario erano i suoi anni. Ma la sua razza era longeva. Lui non aveva un solo capello bianco. Nessuno gli dava 40 anni e si ricordava che Varenka diceva che in Russia la gente a 50 anni si considera vecchia, mentre in Francia un uomo di 50 anni si considera dans la force de l'âge e uno di 40 un jeune homme. Ma che cosa significava il conto degli anni quando lui si sentiva giovane d'anima come era 20 anni prima? Non era forse giovinezza il sentimento che aveva provato adesso, quando uscendo dall'altra parte di nuovo sul margine del bosco aveva visto nella vivida luce dei raggi obliqui del sole la graziosa figura di Varenka con l'abito giallo e il cestino che camminava con passo leggero vicino al tronco di una vecchia betulla e quando quell'impressione della visione di Varenka si era fusa con la visione che l'aveva colpito per la sua bellezza di un giallo campo d'avena inondato dai raggi obliqui e oltre il campo d'una lontana antica foresta screziata di giallo che si scioglieva nell'azzurra lontananza. Il cuore gli si strinse di gioia. Una sensazione di intenerimento si impadronì di lui. Sentì che si era deciso. Varenka, che si era appena accovacciata per raccogliere un fungo, si sollevò con un movimento agile e si voltò. Gettato via il sigaro, Sergej Ivanovich si diresse a passi decisi verso di lei. «Varvara Andreevna, quando ero ancora molto giovane, mi sono formato l'ideale di donna che avrei amato e che sarei stato felice di chiamare mia moglie. Ho vissuto una lunga vita e adesso per la prima volta ho incontrato in voi quel che cercavo. Io vi amo e vi offro la mia mano». Sergej Ivanovich si diceva questo mentre era già a 10 passi da Varenka. Thank you. Vedendo Sergej Ivanovich che si avvicinava, Varenka non si sollevò e non cambiò posizione, ma tutto a lui diceva che essa sentiva il suo avvicinarsi e se ne rallegrava. «Ebbene, avete trovato qualcosa?» domandò rivolgendosi a lui sotto il fazzoletto bianco con il suo bel viso quietamente sorridente. «Nemmeno uno», disse Sergej Ivanovich. «E voi?» Occupata con i bambini che la circondavano, lei non gli rispose. «Ancora questo, vicino al ramo!» indicò la piccola Masha, una piccola rossola tagliata per traverso nel suo elastico cappellino rosa da un filo d'erba secco da cui tendeva a liberarsi. Quando Masha, spezzata in due metà bianche, tirò su la rossola, Varenka si alzò. «Questo mi ricorda l'infanzia», disse, allontanandosi dai bambini a fianco di Sergej Ivanovich. Fecero alcuni passi in silenzio. Varenka vedeva che lui voleva parlare, intuiva di che cosa e si sentiva venir meno per l'agitazione che le suscitavano la gioia e la paura. Si erano tanto allontanati che nessuno ormai avrebbe potuto udirli. Eppure lui non cominciava ancora a parlare. Per Varenka era meglio tacere. Quel che loro volevano dire si poteva dire più facilmente dopo un silenzio che non dopo le parole sui funghi. Ma contro la sua volontà, come per caso, Varenka disse: «Allora non avete trovato nulla? Del resto in mezzo al bosco ce n'è sempre meno». Sergej Ivanovich sospirò e non disse nulla. Era indispettito che lei si fosse messa a parlare dei funghi. Avrebbe voluto farla tornare alle prime parole che aveva detto sulla sua infanzia, ma come contro la propria volontà, dopo aver taciuto per un certo tempo, fece un'osservazione sulle ultime parole di lei. «Ho sentito dire soltanto che gli ovoli sono prevalentemente ai margini, benché io non sappia distinguere un ovolo». Passarono ancora alcuni minuti. Loro si erano allontanati ancor più dai bambini ed erano completamente soli. Il cuore di Varenka batteva tanto che lei ne udiva i colpi e sentiva di arrossire, impallidire e arrossire da capo. Esser la moglie di un uomo come Koznishev, dopo la sua posizione presso la signora Stahl, le sembrava il colmo della felicità. Inoltre era quasi sicura di essersene innamorata. E adesso questo doveva decidersi. Aveva paura. Era terribile sia quel che lui avrebbe detto, sia quel che non avrebbe detto. Bisogna avere una spiegazione, adesso o mai più. Questo lo sentiva anche Sergej Ivanovich. Tutto nello sguardo, nel colorito vermiglio, negli occhi bassi di Varenka mostrava un'attesa morbosa. Sergej Ivanovich lo vedeva e aveva compassione di lei. Sentiva anche che non dirle nulla adesso significava offenderla. Rapidamente ripeteva nella sua mente anche le parole con cui voleva esprimere la sua proposta. Ma invece di queste parole, per una considerazione che inaspettatamente gli venne da fare, a un tratto domandò: «Ma che differenza c'è tra un ovolo e un prugnolo?» Le labbra di Varenka tremarono dall'emozione quando rispose: «Nel cappello non c'è quasi differenza, ma nel gambo sì». E non appena queste parole furono dette, e lui e lei capirono che tutto era finito, che quel che doveva essere detto non sarebbe stato detto, la loro agitazione, che prima aveva raggiunto l'apice, cominciò a calmarsi. Ritornato a casa ed esaminando tutti gli argomenti, Sergej Ivanovich trovò che il suo ragionamento non era stato giusto. Lui non poteva tradire la memoria di Marie. Thank you.